Il terzo anello ad alta voce, il circolo Pickwick di Charles Dickens. Perché va di traverso? Chiese Mr. Snodgrass dal truogolo a Mr. Winkle in sella. Non riesco a capirlo, rispose Mr. Winkle. Il suo cavallo seguiva la strada come un tronco alla deriva, con un'andatura stranissima. Una spalla avanti, la testa verso un lato della strada e la coda verso il lato opposto. «Le, mi è caduta la frusta!» disse Mr. Pickwick. «Winkle!» disse Mr. Snodgrass al cavaliere che avanzava al trotto sull'alto cavallo, col cappello sulle orecchie, sbattuto e sconquassato dalla violenza dell'esercizio che sembrava dovesse mandarlo in pezzi. «Raccogliete la frusta, siate gentile!» Mr. Winkle tirò sul morso dell'alto cavallo fino a diventare paonazzo ed, essendo infine riuscito a fermarlo, scese, porse la frusta a Mr. Pickwick e, afferrando le redini, si preparò a risalire. Ora, se l'alto cavallo, per naturale giocondità di temperamento, desiderasse prendersi una piccola innocente ricreazione insieme a Mr. Winkle, o se gli fosse balenata l'idea che il viaggio poteva essere altrettanto soddisfacente, sia con il cavaliere che senza di esso, non sappiamo, né ovviamente è possibile arrivare a conclusioni precise e definitive su questo punto. Ma qualsiasi fosse il movente dell'animale, certo è che questi, non appena Mr. Winkle ebbe toccato le redini, vi passò sotto la testa, liberandola e rinculando per tutta la loro lunghezza. «Che devo fare?» gridò Mr. Winkle quando la giostra ebbe durato un certo tempo. «Che debbo fare? Non riesco a montare in sella!» «Sarà meglio che lo conduciate a piedi, finché non arriviamo a un dazio!» rispose Mr. Pickwick dalla carrozza. «Ma non vuole muoversi!» ruggì Mr. Winkle. «Venite voi per piacere a tenermelo fermo!» Mr. Pickwick era davvero la gentilezza e la pietà in persona. Abbandonò le redini sul dorso del cavallo, scese di cassetta, condusse scrupolosamente la carrozza contro la siepe laterale, nell'ipotesi che qualche veicolo potesse sopraggiungere lungo la strada, e si rivolse a soccorrere il suo compagno in angustie, lasciando Mr. Tupman e Mr. Snodgrass nella vettura. Non appena il cavallo scorse Mr. Pickwick avanzare verso di lui con la frusta in mano, convertì il moto rotatorio cui si era fin qui dedicato in un movimento rinculante di natura così risoluta da trascinare immediatamente Mr. Winkle, ancora attaccato all'altra estremità delle redini, nella direzione opposta e a velocità sensibilmente superiore a quella di una marcia forzata. Mr. Pickwick corse ad aiutarlo, ma più Mr. Pickwick correva in avanti, più il cavallo correva indietro. I zoccoli rumoreggiavano sul terreno, si sollevò un polverone, finché Mr. Winkle, con le braccia quasi scardinate, lasciò addirittura la presa. Il cavallo si fermò, guardò, scosse la testa, si voltò e si diresse tranquillamente al trotto verso casa, a Rochester, lasciando Mr. Winkle e Mr. Pickwick a guardarsi negli occhi, attoniti e disperati. Un rumore tambureggiante a breve distanza li sorprese. Alzarono lo sguardo. «Santo Dio!» esclamò angosciato Mr. Pickwick. «È l'altro cavallo che scappa!» E purtroppo era vero. Il chiasso aveva spaventato l'animale e le redini erano abbandonate sulla sua groppa. Era facile prevedere il risultato. Si gettò a gran carriera con la carrozza dietro di sé e Mr. Tupman e Mr. Snodgrass nella carrozza. La corsa fu breve. Mr. Tupman si buttò nella siepe. Mr. Snodgrass seguì il suo esempio. Il cavallo scaraventò la carrozza contro un ponte in legno, dove le ruote si staccarono dalla cassa e questa dall'avantreno, dopodiché, fermo, immobile, stette a guardare il disastro compiuto. Black-eyed dog, he knew my name. A black-eyed dog, he called at my door. A black-eyed dog, he called for more. Un'ora di marcia portò i viaggiatori a una piccola osteria sulla strada, con due olmi, un abbeveratoio e un'indicazione stradale davanti, due pagliai sbilenchi dietro, un orto di fianco e tutto intorno una strana confusione di tettoie marce e di baracche in rovina. Un uomo dai capelli rossi lavorava nell'orto e a lui Mr. Pickwick si rivolse chiamando ad alta voce: «Ehi là!» L'uomo dai capelli rossi si raddrizzò sulla schiena, fece solecchio con la mano e fissò con tutta calma e indifferenza Mr. Pickwick e i suoi compagni. «Ehi là!» ripeté Mr. Pickwick. «Ehi!» fu la risposta dell'uomo dai capelli rossi. «Quanto c'è da qui a Dingley Dell?» «Più di 7 miglia». «La strada è buona?» «No!» E dopo aver dato questa concisa risposta e un'altra occhiata, che parve soddisfarlo pienamente, l'uomo dai capelli rossi riprese il suo lavoro. Era pomeriggio inoltrato quando i quattro amici e il loro compagno a quattro zampe imboccarono il sentiero che portava a Manor Farm. E perfino il piacere di trovarsi così vicini alla loro meta, che in circostanze diverse avrebbero provato, gli fu avvelenato dalla coscienza di avere un aspetto molto strano e di essere in una situazione ridicola. Gli abiti strappati, i volti graffiati, le scarpe polverose, l'aspetto di persone allo stremo delle forze e soprattutto il cavallo. Oh, come Mr. Pickwick maledisse quel povero cavallo! Una sua meditazione su tali macabri argomenti fu interrotta dall'improvviso apparire di due persone a una svolta del sentiero. Erano Mr. Wardle e il suo fido servitore, il ragazzo grasso. «Ma dove siete stati?» disse l'ospitale signore. «È tutto il giorno che vi aspetto. Avete un'aria stanchissima. Ma che c'è? Siete tutti graffiati. Nessuna ferita, spero, eh?» «Bene, bene, sono contento di sentirvelo dire, sono proprio contento. Dunque vi siete ribaltati, eh?» «Non ci badate, sono incidenti che capitano spesso qui.» «Joe!» È di nuovo addormentato. «Joe, prendi il cavallo del signore e portalo nella stalla.» Il ragazzo grasso seguì pigramente i loro passi conducendo l'animale. E il vecchio signore, con espressioni di sincero rincrescimento per quella parte delle loro avventure che i suoi ospiti giudicarono conveniente raccontarli, li guidò verso la cucina. «Qui potrete rimettervi in ordine», disse il vecchio signore, «e poi vi presenterò le persone che sono in salotto. Emma, tira fuori il maraschino. Su Jane, ago e filo qui. L'acqua e gli asciugamani, Mary. Avanti, ragazze, datevi da fare.» Tre o quattro prosperose ragazze si sparsero immediatamente alla ricerca dei diversi articoli richiesti, mentre un paio di garzoni, con la testa grossa e la faccia a luna piena, si alzarono dal loro cantuccio presso il camino, poiché, pur essendo una sera di maggio, il loro attaccamento al fuoco del ceppo appariva così sviscerato come se fosse stato Natale, e sparirono in qualche oscuro recesso, da cui riemersero subito con una scatola di lucido nero e mezza dozzina di spazzole. «Svelti!» disse ancora il vecchio signore, ma non c'era bisogno di sprone. Una delle ragazze stava già versando il maraschino, un'altra arrivava con gli asciugamani, e uno degli uomini, afferrando all'improvviso Mr. Pickwick per la gamba, a rischio di fargli perdere l'equilibrio, si dava a spazzolare i suoi stivali con tanta energia da fargli bruciare tutti i calli. L'altro, nel frattempo, frizionava Mr. Winkle con una pesante spazzola da abiti, emettendo durante l'operazione quel particolare sibilo usato dagli stallieri mentre strigliano un cavallo. «Pronti?» si informò il vecchio signore quando i suoi ospiti furono lavati, rammendati, spazzolati e maraschinati. «Prontissimi!» disse Mr. Pickwick. «Venite allora!» E la comitiva, dopo essere passata nel buio di parecchi corridoi ed essere stata raggiunta da Mr. Tupman, rimasto indietro per strappare un bacio a Emma e debitamente ripagato a spinte e graffi, arrivò sulla porta del salotto. «Benvenuti!» disse quell'ospite cordiale spalancandola e passando avanti per annunciarli. «Benvenuti, signori, a Manor Farm!» Thank you. Capitolo VII, dove Mr. Winkle, invece di sparare al piccione e uccidere la cornacchia, sparò alla cornacchia e ferì il piccione. Le faticose avventure della giornata operarono così fortemente sulla naturale disposizione di Mr. Pickwick al riposo che in meno di 10 minuti dopo essere stato condotto nella sua comoda camera da letto, egli cadde in un sonno profondo e senza sogni, da cui fu svegliato soltanto quando il sole mattutino dardeggiò corrucciato i suoi raggi splendenti nella stanza. Mr. Pickwick non era un ignavo e balzò come un ardente guerriero dalla sua tenda, cioè dal suo letto. «Bella campagna, bella!» sospirò quell'entusiastico signore aprendo le persiane. «Chi potrebbe ancora vivere per vedere ogni giorno solo tegole e mattoni, dopo aver sentito una volta sola l'incanto di una scena come questa? Chi potrebbe continuare a esistere se non vi fossero più galli, tranne quelli di ferro dei comignoli? Se l'ultimo ricordo del dio Pan fosse il pancotto, se non vi fossero più messi ma solo commessi, chi mai potrebbe tollerare di protrarre la vita in un mondo così? Chi, dico io, potrebbe sopportarlo?» E dopo aver interrogato assai minuziosamente il nulla, secondo i più autorevoli precedenti letterari, Mr. Pickwick sporse la testa dalla persiana e si guardò intorno. Cadde in un incantevole e delizioso sogno a occhi aperti. «Buon dì!» fu la parola che lo svegliò. Guardò alla sua destra, ma non vide nessuno. I suoi occhi cercarono a sinistra e affondarono nell'immensità del paesaggio. Fissò lo sguardo al cielo, ma non era di là che lo chiamavano. Poi fece ciò che una mente comune avrebbe fatto subito. Guardò in giardino e vide Mr. Wardle. «Come va?» chiese quel gioviale personaggio già senza fiato al solo pensiero del piacere che si riprometteva. «Bella mattina, vero? Lieto di vedervi così mattiniero. Fate presto a scendere, venite fuori, vi aspetterò qui!» Mr. Pickwick non aveva bisogno di farselo dire due volte. Per fare toeletta gli bastarono 10 minuti, allo spirare dei quali si trovò al fianco del vecchio signore. «Buon dì!» disse a sua volta Mr. Pickwick. Poi, vedendo che il suo compagno era armato di fucile e che un altro era già preparato sull'erba, «Cosa c'è in programma?» «Ecco, il vostro amico e io», rispose il padrone di casa, «usciamo a caccia di cornacchie prima di colazione. Deve essere un ottimo tiratore, no?» «Lui dice di essere un tiratore di prim'ordine», replicò Mr. Pickwick, «ma io non l'ho mai visto con il fucile in mano». «Bene», disse il padrone di casa, «ma dovrebbe sbrigarsi. Joe! Joe!» il ragazzo grasso, che sotto l'eccitante influenza del mattino non sembrava addormentato più che per tre quarti e un po', emerse dalla casa. «Va su a chiamare il signore e digli che mi troverà con Mr. Pickwick ai nidi delle cornacchie. Spiegagli dove sono, capito?» Il ragazzo andò a fare la sua commissione e il padrone di casa, portando tutti e due i fucili come un secondo Robinson Crusoe, aprì la marcia dal giardino. Bella, si tu te non le avvi, amore noie, sotto voce torna a giurare che non mi amai la sa, non ti dà tu non fa capire amore noie son di ramma bocca ma te va sa sa c'è va se non mi sai da ma se c'è un che mi sono buso da fanno qua troppo fu buso con gli azze buso per ci scusare. La stanza scura di neva uno senza vasà gomma che arroba tra mani c'è ma vasà. Chi le casta con te è tanto amico con me, se le faccio stampa mi dà e tu che sai la sa, tu segreta da domani tra tutte tue carne me, dammi la volta per la sa stampa tu non mi puoi dare ma se c'è un giusto un buso da vanna fa troppo focuso la danna scusa ma ci scurta vado forte che su la morte cancellerà sotto sta amore tanta felicità la la la la la la la la la la la la la la la. «Ecco il posto», disse il vecchio signore fermandosi dopo pochi minuti di cammino in un viale alberato. Ma non era necessario dirlo. Il gracchiare ininterrotto delle cornacchie era sufficiente a indicarne l'ubicazione. Il vecchio signore posò un fucile per terra e caricò l'altro. «Eccoli», disse Mr. Pickwick, mentre le forme di Mr. Tupman, Mr. Snodgrass e Mr. Winkle apparivano in lontananza. Il ragazzo, non essendo ben certo quale signore gli avessero detto di chiamare, con rara sagacia e a scanso di equivoci, li aveva chiamati tutti e tre. «Venite, presto!» esclamò il vecchio signore rivolgendosi a Mr. Winkle. «Un cacciatore appassionato come voi dovrebbe essere in piedi da un pezzo, anche se questa non è una gran caccia!» Mr. Winkle rispose con un sorriso forzato e raccolse da terra il secondo fucile con un'espressione del volto che faceva pensare piuttosto a una cornacchia metafisica sconvolta da un presagio di violenza e di morte vicina. Poteva essere passione, ma aveva tutta l'aria di un desolato smarrimento. Il vecchio signore fece un cenno col capo e due ragazzi cenciosi, reclutati e condotti sul posto in precedenza, incominciarono subito ad arrampicarsi su due piante. «A che servono quei ragazzi?» chiese Mr. Pickwick bruscamente. Era piuttosto allarmato. Non si sentiva del tutto sicuro che la crisi della produzione agricola, di cui aveva udito parlare tanto e così di frequente, non potesse aver spinto quei due ragazzetti legati alla terra a guadagnarsi una vita precaria e rischiosa col fare di se stessi bersaglio ai cacciatori inesperti. «Solo per alzare la caccia», rispose ridendo Mr. Wardle. «Per fare che?» chiese Mr. Pickwick. «Beh, in parole povere, per spaventare le cornacchie». «Ah, tutto qui? Siete soddisfatto?» «Assolutamente. Benissimo. Devo cominciare io?» «Se volete», disse Mr. Winkle, felice di ogni dilazione. «State indietro, allora. Pronti? Via!» Il ragazzo gridò e scosse un ramo su cui c'era un nido. Una mezza dozzina di giovani cornacchie, in animatissima conversazione, uscì in volo per chiedere che cosa succedesse. Il vecchio signore sparò a titolo di risposta. Un uccello cadde, gli altri volarono via. Raccoglilo, Joe, disse il vecchio signore. C'era un sorriso sulla faccia del giovanotto mentre avanzava. Indistinte visioni di pasticci di uccelletti fluttuavano nella sua mente. E quando tornò indietro con l'uccello, rideva apertamente. Era grasso. Forza, Mr. Winkle, disse l'ospite ricaricando il suo fucile. Tocca a voi. Mr. Winkle si fece avanti e spianò il fucile. Mr. Pickwick e i suoi amici si chinarono involontariamente per schivare la fitta pioggia di cornacchie che senza il minimo dubbio sarebbe stata provocata dalla canna micidiale del loro compagno. Ci fu una pausa solenne, un grido, uno sbatter d'ali, un debole clic. «Ehi là!» disse il vecchio signore. «Non funziona?» chiese Mr. Pickwick. «Ha fatto cilecca!» disse Mr. Winkle pallidissimo, forse perché contrariato. «Strano», disse il vecchio signore prendendo il fucile. «Non ho mai saputo che uno di questi abbia fatto cilecca prima d'ora». «Ehi, ma non c'è traccia della capsula!» «Benedetto è Dio», disse Mr. Winkle. «Mi ero proprio scordato della capsula». La lieve lacuna fu colmata. Mr. Pickwick si curvò di nuovo. Mr. Winkle si fece avanti con aria ferma e risoluta. E Mr. Tupman guardò da dietro una pianta. Il ragazzo gridò. Quattro uccelli si alzarono in volo. Mr. Winkle sparò. Rispose lo strillo di un essere umano, non di una cornacchia. Uno strillo di dolore. Mr. Tupman aveva salvato la vita di innumerevoli uccelli senza peccato, ricevendo una parte della scarica sul braccio sinistro. Descrivere la confusione che seguì sarebbe impossibile. Dire come Mr. Pickwick nel primo trasporto dei suoi sentimenti chiamò Mr. Winkle miserabile, come Mr. Tupman giacque disteso per terra, come Mr. Winkle si inginocchiò al suo fianco inorridito e come Mr. Tupman invocò nel suo delirio un nome di donna e aprì un occhio e poi l'altro e poi ricadde indietro richiudendoli entrambi. Tutto questo sarebbe altrettanto difficile da raccontare punto per punto quanto lo sarebbe illustrare il graduale riprendersi dello sfortunato. La fasciatura del suo braccio, effettuata con un fazzoletto dal naso, e il suo ritorno a casa a passi lenti, guidato e sorretto dalle braccia degli amici in angoscia. Thank you.